Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. This was the chatter of the land, and guardian angels sang the strain. Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never, never, never shall be slaves. L'Islanda, come il pacato collega islandese dimostra, ha fatto gol. Le coronarie gli sono saltate. Poveretto. Poveretto. Salvatelo. Va avanti così minuti interi, sì, non, sì, è che, sì, sì. Non è che si ferma, cioè. L'Islanda ha segnato la vera Brexit, non proprio Brexit, l'Inglexit. Tu capisci che a sconfiggere i britanni che hanno appena votato l'uscita, che non sanno come mettere in atto, e l'Islanda che, dopo aver fatto domanda per anni di adesione al trattato, ha sospeso la richiesta di adesione all'Unione Europea. Cioè l'apoteosi del fallimento dell'Europa. Esatto. Cos'è questo l'inno islandese? E cantami questo, vabbè, Oscar, questo se ce la fai, non cantami ci arrivo, questo. Non ci arrivo. Però bellissimo, bellissimo. È lirico. È lirico. Vabbè, signore, allora, abbiamo assistito questo alla è lo vera... sfondo sotto il quale si celebra in realtà l'assunzione al Settimo Empireo della figura che da decenni sta ritemprando l'onore, l'orgoglio, la fede degli italiani, e cioè l'allenatore della nazionale, Antonio Conte. Oramai assolutamente intoccabile, il tabù, Dio, la Trinità, tutto. Sì, secondo il giornale, in titolo di prima pagina, viene giù tutto tranne Conte. Cioè la Brexit, ma i mercati, le banche. Mai? Ma dove? Conte però. Noi rimane. Abbiamo Conte e guai chi ce lo tocca. Esatto. Vabbè, insomma. Tema delicato, qualunque battuta su questo farebbe esplodere i nostri ascoltatori. Quindi diciamo con assoluta riverenza. È un assoluto caso che in alcune squadre dove lui era allenatore ci fossero più. Assolutamente, tutti hanno dimenticato, non è mai avvenuto. Anzi, non dico neanche di cosa si tratta, no, ma qualcuno no. capisce al volo, non però so non se, è mai avvenuto. Non so se stai parlando di quello che sto pensando, ma di cose che avrebbero fatto finire la carriera di chiunque, ma non è avvenuto. No, assolutamente. Comunque abbiamo Antonio Conte. Tu pensa, caro Oscar, prima dei santi, adesso ce li dici, che tutto crolla, ma ieri, per esempio, anche Renzi era con Hollande, la Merkel. E come ha commentato? Sentite qui. Grazie Angela per l'accoglienza, grazie a François e a Angela per l'invito. A quest'ora credo che gli italiani saranno molto attenti al processo di potenziale uscita dalla Spagna dai campionati europei, più che dal Regno Unito, ma in realtà capisce. E poi si è parlato di cose serie, però. Comunque qui si parla ormai di Conte come amministratore delegato di Unicredit, capo negoziatore di fronte alla Gran Bretagna. Conte risolverà tutto, ragazzi, tutto. No, se avete capito, vabbè, dici i santi di oggi un po' si scherza, ma si parla di cose serie. Allora, San Conte. E a parte, perdonatemi, un pensiero per me, che mi è capitato anche di conoscere nella vita, un pensiero a Carlo Pedersoli, cioè Bud Spencer, che ieri se n'è andato, e devo dire, umanamente a me colpì molto, perché è esattamente come uno se lo aspettava, anzi meglio, una persona straordinaria, un grande attore, un grandissimo sportivo. adesso. Vabbè, ci sta, perché resterà, ragazzi, nell'immaginario di nuoto, italiano, esatto, il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri e così via, ma soprattutto una persona straordinaria. Carlo, fai ridere anche sopra dove stai andando, che poi noi presto o tardi speriamo, ma comunque ti raggiungiamo. Al di là di questo, oggi Sant'Ireneo, Sant'Attilio, poi nomi diffusissimi come San Lupercio, San Pappio, Santa Potamiena di Alessandria, ecco, mi fermo qui, ma oggi è un giorno che, per ricordare la grandezza di Milano, nel 1883 a Milano si apriva la prima centrale elettrica urbana europea, addirittura, a via Santa Radegonda. Dopodiché Gay Pride è la giornata internazionale dell'orgoglio LGBT e buon compleanno a Sabrina Ferilli. Ah, va bene, così. Perché ho visto che Sabrina Ferilli è tornata a essere parte attiva del dibattito a per sinistra. Chi vuole capire, Sabrina, capisca. Esattamente. Oscar Giannino fa gli auguri a Sabrina Ferilli. No, e non ne dice l'età, peraltro, da galantuomo. Non ne dico l'età da galantuomo, perché non ce l'hai senza età. Sabrina Ferilli, come Alba Parietti, sono le icone del dibattito a sinistra, non è di spettacolo, che oltre a questo, quindi. Comunque, se avete capito, parliamo ovviamente di cose serie, sempre sullo sfondo la Brexit, l'Europa. Quindi di Sciglio, no? No, non di Sciglio. Se volete chiamarci 800 24 00 24, si assiste che cosa? Ora i brexitisti convinti che rallentano un po'. Che rallentano. Ma parliamo d'Europa, la prendiamo un po' dal lato anche calcistico, perché con noi c'è Massimo Fini, grande penna, grande giornalista, collega. Massimo, buongiorno e bentrovato, come va? Ciao. Sopravvivo a stento, ma comunque sopravvivo a stento, grande. Però Massimo Fini non disdegna mai, da amante qual è, anche lo sguardo al calcio, perché il calcio essendo lo sport più bello del mondo, lo so che così Massimo ci attiriamo grandi critiche. No, io lo seguo da quando ho 4 anni, quindi penso un po' 2 secoli praticamente. Addirittura. E noi avevamo solo il calcio quando eravamo ragazzini, perché questo è vero. Lo sci lo sapeva chi stava in montagna. Il tennis era un gioco da ricchi. Bravo. Il basket era un gioco ancora troppo americano. Quindi tutti noi abbiamo giocato a calcio, tranne Giampiero Mughini, che faceva le parallele. No, l'ha scritto lui. È testuale, sì, è vero. L'ha scritto lui. Allora, Massimo Fini ha scritto un pezzo spassosissimo, tra l'altro, sul Fatto Quotidiano 2 giorni fa, a dire un pervertito sessuale passerebbe una serata con una ragazza invece che stare a vedersi Islanda, Inghilterra. Esatto, ovviamente. Ma tu perché te ne è stato vaticinatore, però. Io ho giocato tutto il torneo l'Islanda pareggio e ho presa. Ieri, dovendo rifarmi anche di un'altra perdita, l'ho giocata vincente, era andata 3,5. Ma a parte questo, sì, è che era troppo commovente. È una storia troppo commovente, sono troppo d'accordo. Bella. Sono d'accordo. Con quel poi rito finale che ricorda un po' i Maori, no? Sì, è vero. Eccetera, quel Marco Antonio stupendo che fa le rimesse di 100 metri. E poi è bello, dimostrano una cosa la partita di ieri, anche quella di Purmo d'Este Italia, e cioè che la motivazione è quasi tutto. Questo potrebbe essere calato anche davvero su Antonio Conte. Però la domanda a Fini, che capisce di calcio perché lo segue da piccolo, è perché la motivazione, se diventa così prevalente, deriva dal fatto che i valori tecnici si sono abbassati paurosamente, o deriva dal fatto che poi alla fine hai voglia tattica, hai voglia a programmi di muscolare, di preparazione, hai voglia a diete, tutto quello che vuoi, alla fine arriva Conte che li strapazza autoritariamente, uomo di destra, gli dice vi uccido se non vincete, e questo tira fuori il più rispetto anche a gente che tecnicamente non sembra un gran... Che qual è il mistero? Quella che è la seconda cosa, riuscire a creare un gruppo compatto dove tutti uno per tutti, tutti per uno, questo è fondamentale. Gli inglesi ieri, per esempio, non erano una squadra, anche lì vedi come, mi spiace dirlo perché secondo me i mister si danno un po' troppe aghe, ma dico che l'allenatore conti qualcosa, lo vedi, conto Conte, Hodgson. Hodgson non ha schierato una squadra, ha messo in campo 11 giocatori che andavano contro loro, contro messo in squadra. Ma Massimo, quindi un uomo di sinistra non ha le caratteristiche intellettuali culturali, antropologiche per essere un buon leader di destra. Cioè, un buon allenatore deve essere di destra autoritario, o no? Ma io non intenderei queste categorie così squalificate. Sono d'accordo. In un gioco così, così nobile. Perché così vuoi nobile. Difendere la nobiltà, certo. Come il calcio. Perché macchiare il calcio della sporca politica. Però io adesso inizio a farmi quest'idea, ma non perché io abbia pregiudizi. Cioè, se Conte è così bravo perché gli urla in testa, vi spacco in due se non ce la fate. Certo, non me lo vedo che vota PD, ma magari sbaglio. Va bene, non ce lo vede che vota PD. No, ma comunque, insomma, partiamo dal calcio per parlare di quello che sta succedendo. Ma Massimo, è davvero qualcosa di epocale quello che sta succedendo? O forse c'è stata un po' di reazione emotiva, un po' puerile, almeno dal punto di vista, dal punto di vista economico, senz'altro non è epocale. Sai, le borse vanno su e giù come la pelle dei coglioni, non è importante, cioè una volta Salson dice hanno guadagnato 600 miliardi, sì, poi sì. Una volta hanno bruciato, eccetera. Hanno bruciato, in realtà sono soldi fittizi, come tutti sanno, e quindi, no, è importante da un altro punto di vista, che finalmente ci siamo liberati degli inglesi, perché gli inglesi non sono europei. Londra non è una città europea, è una città internazionale. E gli inglesi sono legati a filo doppio con l'America, che è il nostro vero oggi nemico, competitor. Ed è un po' l'ossessione di Massimo Figli. Quando questi qui hanno cominciato nel 90 a far guerra da destra manca, non è solo un'ossessione, ma poi anche dal punto di vista economico. Tieni presente, noi ci condanniamo a una politica di austerity, secondo me giustamente, perché per non creare nuove bolle speculative che ci cadrebbero sulla testa, e quelli lì infilano 3 trilioni di dollari in un colpo, non è che li stampino, fanno crediti per 3 trilioni, ma il denaro è credito, insomma, adesso Giannino su questo ne sa infinitamente più di me, naturalmente, e allora è un competitor sleale. Quindi ci siamo liberati dagli inglesi, ma guarda che gli inglesi, quelli che hanno votato, non si vogliono liberare dell'Europa. Boris Johnson ha scritto questo articolo ieri sui giornali britannici a dire non, praticamente la Gran Bretagna ha una storia totalmente europea, e ci tengo a ribadirlo, magari non nella burocrazia dell'Unione Europea. Il tanto criticato Nigel Farage sembra l'unico a avere le idee chiare, gli altri leader della separazione sono cagati sotto di fronte al risultato. Ma non è che l'impressione sono è che fanno un po' i pragmatici, forse. No, non hanno un piano. Io capisco Cameron che ci deve mettere, se ne deve andare, dice adesso pensateci voi. Sì. Però, capito, quando fai un referendum di questo tipo, ed è una questione per chi diventa leader nei conservatori e anche leader laborista, va a casa travolto tra un po', e scopri che non hai un piano per affrontare il giorno dopo, anzi inizi a dire no, ripensiamoci, no, noi la domanda ufficiale non la facciamo, eccetera eccetera, non è un gran bel vedere, non è un gran bel la verità. Io poi sono per non infierire e per avere un atteggiamento, diciamo, pragmatico, che limiti i danni reciproci, però detto questo, dal loro punto di vista non è sto gran capolavoro. Adesso non so, Massimo Fini, io credo che sia d'accordo anche lui, cioè a vederli sembrano un po' tutti come la nazionale britannica di ieri, i politici spaesati britannici. Spaesati, hanno votato un po' così e poi dopo si sono resi conto. Così, Massimo? Ma sì, ma io non accetto il discorso che viene fatto, mi pare, chi l'ha fatto? L'ha fatto Saviano e altri, che la gente è troppo ignorante per poter votare su queste cose. Sì, Saviano ha detto il popolo votò anche Hitler, giusto? Vabbè, allora, il popolo va bene solo quando vota chi diciamo noi prima. Ecco, vabbè. Sì, guarda, tu sai che io sono un sincero antidemocratico. Esatto. Ecco, però voglio dire, sono curiosi questi democratici, perché quando le cose votano il popolo, vota le cose che gli vanno, va bene. Quando le cose non gli vanno, allora il popolo non ha diritto di... è troppo ignorante. Mi pare un discorso totalmente inaccettabile. E pensa che su questo, Massimo, noi riceviamo anche un bel po' di lettere in questi giorni per sollevare proprio questo punto, a rifletterci sopra. Ma tu l'hai detto sinteticamente, molta gente si scandalizza perché dice date fiato al populismo. Noi ci limitiamo a dire, cari ascoltatori, ieri anche ho risposto a molti di voi che ci scrivevano. Noi ci limitiamo a dire che la politica, il suffragio universale, o ci credete o non ci credete, il punto è: esistono dei politici capaci di toccare i cuori, i portafogli, la testa, la mente, ma anche l'emotività della gente, capace di convincere? Se hanno buoni argomenti, sì. Se non ci sono, attenzione, che prima di dire che allora è meglio che noi non votiamo più, allora torniamo a qualcos'altro, alla Repubblica di Platone, ai re filosofi. Però attenzione, io Oscar vado anche oltre, l'ho scritto su Facebook. Forse il populismo che c'è, la cosiddetta gente contro G, nasce anche da decenni in cui il voto in Italia è stato dato, delega, come dire, e poi non è stato rispettato. Il meccanismo della delega, perché esatto, se noi che votiamo il referendum per togliere il finanziamento ai partiti che rientrano dalla finestra, se togliamo i ministeri che dell'agricoltura ce ne richiamano delle politiche forestali, e quindi la gente è educata o ineducata e pensa che il proprio voto non conti nulla. E poi comunque quindi così nascono i milioni di italiani, ma anche di britannici, di spagnoli disoccupati, che hanno poco reddito, che vedono che poi magari la politica dà ad altri invece e a chi non ha, e così via. Beh, questi anche sono fatti oggettivi. Adesso abbiamo parlato noi, ma sentiamo un secondo Massimo su questo, il populismo e la politica. Tu come la vedi, Massimo? Ma guarda, ti dirò, Oscar, che io non ho mai capito la parola populismo. Non capisco cosa voglia dire. E cioè, se il popolo, se come è in democrazia il popolo è sovrano, la parola populismo non riesco a capire cosa l'accezione negativa, dici. L'accezione negativa del fatto che il popolo. Che il popolo è ignorante, diciamo, Massimo. Nella massa è ignorante. Sì, quindi... ma tu lo sai che i liberali, se estimano una cosa, è proprio il popolo, la tirannia delle masse. E allora bisogna fare un altro sistema. Se fate questo, dovete soggiacere a questo. Io ne farei tutt'altro, a parte che non credo alla democrazia. Qui era il referendum, alla democrazia rappresentativa, perché è una truffa. Ah beh, tu questo non ci credi, ce l'hai già detto varie volte. No, ma guardate, oggi però, la stampa... Aspetta, fammi spezzare una lancia. Io in economia e tante cose non la penso da Massimo Fini, ma Massimo Fini, con le sue riflessioni di anni e anni e anni, sui limiti della democrazia rappresentativa... Ah, certo. Ma infatti lui lo dice primo d'anni. È venuto prima della crisi e del venir giù del sistema dei partiti. E non è, chi dà questi contributi? Non è un matto. Assolutamente, capito? No. Ecco, io infatti, lo dico perché altrimenti qua non si può più pensare diverso. Dopo la pubblicità vorrei capire se Massimo Fini ci spiega in che cosa consiste secondo lui la truffa della democrazia rappresentativa. Faccio notare che oggi il capo dello Stato, quindi non un noto populista, se esiste, cioè Antonio Conte, no, non l'hanno ancora nominato, Sergio Mattarella, intervistato dal direttore della stampa, dice: il voto dell'elettorato va sempre rispettato, anche quando provoca rammarico e lo si ritiene un errore. Mattarella è il massimo del tono che ha usato sulla Brexit. Sì, rammarico. Anche le sfingi ogni tanto alzano sopracciglia. In realtà poi parla di tristezza, insomma. Però... cioè, anche se il voto non ci piace, anche se è andata come non voleva molta gente, però va rispettato. Beh, lui è stata una vita, la DC, doveva buttare giù che votassero Andreotti e non lui. Quindi. Tra poco state con noi, 800 24 00 24. Eccoci qua, le 8 e 40 minuti. Allora, Massimo Fini è con noi. Da Reykjavik? No, da Reykjavik, no, da Reykjavik. No, ma in che cosa consisterebbe, sinteticamente, se ci vuoi spiegare agli ascoltatori, questa truffa della democrazia rappresentativa? Ma perché truffa? Vedi, la democrazia esisteva quando non sapeva di essere democrazia. Nel villaggio preindustriale, la comunità, l'assemblea dei capi famiglia decideva su tutto ciò che riguardava il villaggio, e quindi decideva con conoscenza di causa, perché decideva del proprio e sul proprio. Questo sistema, che era andato benissimo per parecchi secoli, fu abolito nel 1787, due anni prima della Rivoluzione francese, sotto la spinta degli interessi della borghesia e della sua, come si può dire, smania regolamentatrice. Non era più l'assemblea dei capi famiglia che decideva, ma nominava dei rappresentanti. E qui inizia la tragedia, perché i rappresentanti in realtà non ti rappresentano. E questo è il punto di fondo. Naturalmente, cioè, chi rappresenta? Diciamo, rappresentano se stessi. Accentuate. E chi rappresenta se stessi? Chi rappresenta? Sì, rappresentano se stessi, i propri tuffoni, o anche no, ma insomma non rispondono questa intermediazione. Non risponde realmente a chi li ha votati. Naturalmente c'è un problema, il problema è che la democrazia diretta si può fare solo in ambiti ristretti. Quando Rousseau pensava alla democrazia diretta, Ginevra aveva meno di 100.000 abitanti. Non si può fare una democrazia diretta come pensava Casaleggio, globale. Perché effettivamente tu ti troveresti a decidere su cose, in questo caso, in cui, cui nulla sai. Quindi la truffa è il fatto che le persone elette in realtà non rappresentano le persone, gli elettori. Questo sì, non solo rappresentano gli elettori, tieni presente che poi la cosa si lega al sorgere dei partiti, nessuna costituzione democratica mai, fino al 1920, ha mai preso in considerazione i partiti, perché i partiti sono delle lobby, e in quanto tali sono il vulnus del pensiero liberale, perché cosa voleva il pensiero liberale? Il pensiero liberale voleva potenziare capacità, meriti, potenzialità del singolo individuo. Vabbè, no, ma ci hai chiarito un po' della tua posizione. Concludo solo. Che la scuola elitista italiana del primo del Novecento, Mosca, Pareto, esatto, considerata chissà perché di destra, Michels, l'aveva detto con chiarezza, diciamo, Mosca dice 100 che agiscono sempre d'accordo prevarranno sempre su 1000 che agiscono liberamente. Quelli che e di cui Pablo Cioè e James Buchanan. Guardate, considero un vanto per una persona che Massimo Fini a quest'ora cita Gaetano Mosca a chi è in ascolto. Grazie infinite. Ci sono gli ascoltatori, c'è anche un'altra amica che ritroviamo tra poco, la presentiamo. Vittorio però ci chiama da Milano. Buongiorno Vittorio, che c'ha da dire? Sono arrabbiato con voi due. Benissimo. Eccoci qua. Cioè, perché... con Oscar e Massimo Fini. No? Sì. Veramente è un po' che questa cosa ve la volevo dire, perché io faccio il direttore commerciale in una media azienda dove siamo, non sappiamo più cosa dire, perché siamo lì aggrappati per vedere di non licenziare le persone. E questa cosa qui della Brexit che ti mette in ginocchio, c'è un groppo alla gola, e Oscar Giannino riesce a sghignazzare su questa cosa qui. L'Europa è sfasciata, è l'unico. Ma che messaggi mandate alla gente, voi due che siete il giornale di Confindustria? Che messaggi mandate? È chiaro che poi la Confindustria scrive al presidente di Confindustria. Allora, facciamo la radio in limite, e poi l'editore Confindustria. Allora, voi per adesso siete belli tranquilli perché siete lì pagati da una radio, e quindi forse lo fate per fare odio. Sì. Però il coglione, lasciateglielo fare a Cruciani. Dopodiché Giannino c'ha poco da sghignazzare, perché ha fatto ridere anche lui un po' di gente, le sue figuracce le ha fatte anche lui. Ma le figuracce sono un conto, il fatto che quelli abbiano votato Brexit e non abbiano un piano per affrontarla, quindi ascolti bene prima di reagire così, quindi questa è una critica a loro, non sghignazzare. Dopodiché vedremo naturalmente come si fa. Ho anche detto che forse i governi dovrebbero avere un atteggiamento per limitare i danni, quindi si figuri se noi sghignazziamo su chi si trova a dover affrontare i danni di questa instabilità mondiale. Ma soprattutto si figuri se sghignazziamo sull'Europa disunita. Oscar ha sempre detto che era per il Remain, anch'io voterei se si votasse per l'Italia per il Remain, quindi poi resto antipatico, Vittorio, lo capisco, mi scuso. Andiamo a Cristian da Bergamo, buongiorno. Sì, ciao Milan, ciao Giannino. Eccoci. Senti, il mio pensiero è questo, ma di cosa stiamo parlando? Quello che penso è che c'è un popolo che deve votare dei rappresentanti che si devono far carico di decisioni di alto livello. È come se gli operai di un'impresa decidessero la strategia che l'impresa deve prendere. Punto. Secondo me il referendum non è da fare. Non è da fare. Non è questione di non dar voce alla volontà popolare. Però scusi un secondo, un'obiezione. Se lei mi parla di operai di un'impresa, mica sono loro a decidere. L'impresa non è degli operai. Nel nostro paese noi siamo inibiti da un articolo della Costituzione a votare di spese e tasse, cioè i soldi nostri, e voi crescete dalla convinzione che lo Stato siamo noi. Quindi, come vede, dire gli operai e il manager e la proprietà, non si può fare questo paragone, perché se io non posso votare su spesa e tasse, che è l'espressione diretta del mio rapporto più diretto con la politica, io credo di essere trattato come un suddito. E quindi, se poi, dopodiché, questa è la mia personalissima opinione, se voi siete convinti che la delega, i partiti la utilizzino per l'interesse generale e non per i propri interessi, benissimo. No, poi vorrei capire, Christian, fino a dove si spinge l'asticella, perché non si può fare il referendum su queste cose, ma si può fare il referendum sul divorzio, capito, sull'aborto, sulla fecondazione assistita, sì o no? Mi dica, Christian. Trivelle. No, allora, no, io credo sulle che trivelle. No, sulle trivelle no, secondo no, me. Sulle trivelle no, sul divorzio sì. No, sulle questioni etiche sì. Probabilmente sì. Sì. Però su questioni troppo complicate, troppo complesse, che la persona comune, io stesso, non riesco a percepire nella loro complessità. Quindi sbaglia anche Mattarella a dire che il voto dell'elettorato va sempre rispettato anche quando provoca rammarico o lo si ritiene un errore. Sbaglia la Svizzera. Sbaglia la Svizzera a fare il referendum su tutto. Vabbè, insomma, è una sua opinione. Christian, però stiamo riscoprendo che la delega ai partiti in Italia piace ancora. È una bella scoperta. Intanto ci ha raggiunto da Londra, una Londra un po', immagino, abbacchiata. Una Londra un po' delusa, una Londra poco islandese. Cristina Marconi, buongiorno. Buongiorno. Per il Foglio e il Messaggero. Sopravvissuta. Sì. Anche un weekend dopo questo voto. Sì. Che ha scoperto una cosa oggi che da lettori, secondo me, è in grado di indirizzare un po' di gente ad andare più volentieri a Londra adesso. Sì, oggi ne scrivi sul Messaggero, visto che a Londra si va con 70-80 euro ormai con un volo, certo. Un volo low cost, che si può fare a Londra? Allora, beh, si può fare un po' di shopping in questo momento, perché ovviamente tra saldi e cambio è la cuccagna, insomma, quando ricapita, anche perché finché non si rendono conto di quello che hanno fatto e alzano i prezzi, conviene sbrigarsi, insomma, diciamo proprio cogli l'attimo. Perché, insomma, c'è un bel vantaggio, in una settimana si è aperta una finestra di guadagno, incredibile a dirsi. Sì, decisamente, però bisogna proprio venire qui, perché praticamente questa finestra di guadagno, invece, i grandi siti online dello shopping hanno capito che non gli conveniva, infatti hanno chiuso. Per cui giovedì sera, per esempio, ASOS, che è un colosso del commercio online, stranamente non funzionava. Net-a-porter non prendeva pagamenti in sterline, quindi insomma bisogna proprio venire qui. Venire qui e farsi i propri calcoli, certo, insomma non è che le cose delle regali, no? Però no, è chiaro, paradiso dei saldi, almeno in questo. Però Cristina, attenzione, però la gente non ha idea che lì la percentuale di realizzo, cioè di abbassamento dei prezzi ordinari nei saldi, è, ricordacelo Cristina, in media molto elevata. Quante? Molto straordinaria, si parte sempre con 30%, 50%, 70%, non è... Aggiungendo il 10% di ribasso valutario, insomma, si può arrivare quasi a prendere all'80% di sconto. Però Cristina, c'è un aspetto, insomma, a me è un po' inquietato leggendo anche la segna stampa, ha colpito vedere, non so, e leggere di un Boris Johnson un po' adesso restio a dire, ma insomma non è che noi ci sentiamo europei, cioè la sensazione è che molti che hanno votato per la Brexit non si siano reso conto della portata degli eventi e che ora stiano paradossalmente un po' frenando. È un po' questo il dibattito che c'è ora in Gran Bretagna? Assolutamente questo, nel senso che comunque sì, la sensazione, sai, prima stavo seguendo il vostro dibattito su democrazia, non democrazia, sì. Qui la questione è che tante persone sono state un po' utilizzate, diciamolo, da politici, che facendo i politici le hanno convinte di certe cose, però senza presentare un piano. D'altra parte Cameron lo diceva, ma loro non hanno un piano, però sembrava che lo dicesse a scopi elettorali. Quindi però lui come presidente proprio... del Consiglio guida il paese, avrebbe dovuto comunque predisporre un contingency plan, perché i capi partito non ce l'hanno evidente, quelli che hanno vinto lì, che non ce l'abbia il governo britannico, io rimango senza parole, però vabbè. Ma secondo me in questo momento, non so, la sensazione è che comunque per i toni accesi della politica britannica in questi giorni, devo dire, è anche uno spettacolo abbastanza divertente, non so se lui ce l'abbia o non ce l'abbia, sicuramente insomma sta non lo tira fuori esatto. Quante pillole avvelenate riesce a mettere al minuto nel piatto di Boris, nel piatto di Boris. Forse il suo successore. Ma la, sì, ma sì, la Theresa May c'ha qualche chance? No, che okay, vabbè, chi ci ascolta allora, non sa chi è, quindi domanda sbagliata. Però per allora, dire... Theresa May è una bella signora che fa il ministro dell'interno. Fredda. Qualcuno chiama la Lady di Fredda, sì, qualcuno chiama la Lady di Ferro perché appunto di quello ha le temperature, però non ne ha. Ice Lady, no, non c'ha. Non ne ha no, e quindi, ed è praticamente la candidata principale del fronte di quelli che stanno mettendo appunto le pilloline avvelenate nel piatto di Boris perché ce l'hanno morte con lui. Comunque tu in questi giorni stai arrotondando i magri stipendi di corrispondente, raccogliendo gli ordinativi delle tue amiche e comprando e mandando. Sì, ma no, ma consolo anche molti italiani qui che sono disperati, insomma, diciamo le attività sociali sono innumerevoli in questi giorni, perché effettivamente non si capisce che cosa vogliono fare, nel senso già. Che tutti quanti parlano di restare, rivotare. Forse, non lo so, mi sono fatta l'idea che l'unica soluzione onorevole sia andare ad elezioni e un voto elettorale prevarrebbe. Sì, anche perché rivotare per quel che riguarda il referendum, no, invece Cameron l'ha detto chiaramente. No. Però questo significherebbe poter aspettare mesi e io spero che i governi europei capiscano che è meglio, perché tutta sta fretta, vedo i giornali italiani oggi, ho letto degli editoriali in cui dice subito bisogna imporre la soluzione, i tedeschi non la vogliono, ecco, io questi toni muscolari dalla stampa italiana secondo me sono fatti per accrescere le conseguenze negative reciproche. Sì, però io vorrei, non so, Massimo Fini che ancora ci ascolta, hai un'idea su anche gli ascoltatori, che dice il dibattito, vedi, sulla democrazia, la rappresentatività, il diritto di voto, vedi che è poi quello che rimane come il dibattito più sedimentato forse. No, ma io mi rifaccio a quello che ho detto prima, voglio dire, secondo me gli aspetti economici qui sono secondari. Importante, importante per l'Europa, importante poi in particolare per Francia e Italia, è che gli inglesi si sono andati perché gli inglesi sono una longa manus degli americani, ecco, e questo è un fatto politico importante per noi, cioè questo rafforzerà l'Europa politicamente, non la indebolirà. Diciamo sull'asse Francia-Germania e anche Italia. E anche ci arriva anche un po' l'Italia, ma questa è l'Europa vera, insomma l'Europa vera è la Germania, dai, è l'Angela, su. È l'Angela, lo dici con un tono quasi trionfale. Per me che non sono anti-americano mi trovo d'accordo in questo con Massimo. Cioè lo dici con un tono quasi di affetto, per l'Angela. Beh, secondo me è l'unico uomo di Stato europeo, su, dai. Sì, ma ecco, sono d'accordo anche se siamo in minoranza. Questo significa naturalmente, l'uomo, Massimo, l'uomo che in vista Stato, della prossima partita, la fatidica di nuovo che sabato, ritorna dalla Italia-Germania, dove leggeremo sui giornali appelli contro i tedeschi, gli uni, eccetera, eccetera. Per chi la pensa come me, ma è sarà una un po' partita di calcio, dai, lasciatela una partita di calcio. No, lo sai che calcio. L'informazione la renderà una specie sì, di inferno. Con l'inno islandese, se non sbagliamo, chiudiamo ringraziando Massimo Fini, Cristina Marconi e in regia ovviamente Peter Bescapè, in redazione Elisabetta Fosconi e Lorenzo Dio Nespoli. Trinitario Conte, ovviamente. E Conte, Conte. Ciao. Skålar!